Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Che putiferio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ve lo dico spesso che la politica italiana praticamente non ci dà mai modo di annoiarci, su questo possiamo dirlo, crea sempre qualcosa, tira fuori sempre qualcosa di stimolante. Ieri la ghigliottina, poi gli assalti, gli sganassoni, oggi le occupazioni varie, la presidente Boldrini che chiude a chiave i suoi uffici, i 5 Stelle che presentano la richiesta di impeachment per Napolitano, Napolitano che commenta gelido lo stato d'accusa faccia al suo corso, D'Ambrosio che chiede scusa, le deputate PD che querelano il deputato 5 Stelle De Rosa per gli insulti sessuali, insomma un gran caos. Vediamo che cosa ne viene fuori in queste ore, ci saranno anche ospiti che ci aiuteranno a orientarci, ci sarà anche un deputato dei 5 Stelle e uno del PD oltre un costituzionalista che ci dirà in cosa consiste questo impeachment, è possibile farlo, quali potrebbero essere le conseguenze. Fra le altre cose vi avverto che è attesa a momenti la sentenza a Firenze del processo d'appello per l'omicidio di Meredith Kercher, sollecito non è in aula e Amanda negli Stati Uniti, quindi a momenti, quindi io vi racconto, comincio a raccontarvi la giornata, poi ci interrompiamo se dovesse arrivare la sentenza. Quindi cominciamo dal Movimento 5 Stelle contro la Presidente Boldrini, ricorso del Movimento alla Corte Costituzionale. Legge elettorale iniziata alla Camera, la discussione generale ma continua la protesta dei grillini. Evasione fiscale, gli evasori hanno i giorni contati, dice Saccomanni, vicino all'accordo con la Svizzera. Delitto Meredith Kercher, entro sera, come dicevo, la nuova sentenza d'appello. Schumacher ha iniziato all'ospedale di Grenoble il lento risveglio dell'ex pilota. E partiamo quindi, vi dicevo, da questo caos generale che anima molto vivacemente la politica italiana in queste ore, e un po' a raccontarcelo il compito lo affido a Vincenzo Miglietta in diretta da Roma. Ciao Vincenzo. Sì, buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Racconto abbastanza complesso della giornata, dobbiamo tornare a ieri sera, lo ricorderanno gli ascoltatori, il voto attraverso il meccanismo della ghigliottina sul decreto IMU Banca Italia, un voto quindi immediato che ha messo a tacere qualsiasi possibilità di dibattito e di ostruzionismo da parte del Movimento 5 Stelle, e da lì è partita, è scattata la protesta dei pentastellati che è continuata tutta la notte, questa mattina con occupazioni delle varie commissioni che stavano lavorando, ricordiamo gli affari costituzionali e poi la commissione giustizia, e poi Roberta l'emblema un po' della giornata della protesta del Movimento 5 Stelle direi è quello che è successo in sala stampa, laddove si fanno le interviste davanti alle televisioni, è arrivato il capogruppo Speranza del PD che doveva fare una dichiarazione ed è stato interrotto. È stato interrotto da Di Battista del Movimento 5 Stelle, e noi abbiamo un passaggio di questo scontro tra i due poco comprensibile, però dà l'effetto un po' del tenore del caos che c'è stato oggi a Montecitorio, possiamo Sentiamo. Ascoltarlo. I cittadini italiani sanno che persone come lui sono schiave di lobby, schiavi di potenti, e stanno violando la Costituzione e hanno paura di stare qui per parlare. Perché fanno una legge elettorale con un condannato fuori dal Parlamento, perché hanno fatto una votazione in 10 secondi. Sì, sto entrato, ha detto questo. Gli italiani hanno fame e voi gli avete tolto il pane agli italiani. E questo era Di Battista del Movimento 5 Stelle che se la prendeva con Speranza, no? Dicevi? Sì, Di Battista che se la prendeva con Speranza, e Speranza invece che accusava il 5 Stelle di aver votato nell'occasione di IMU Banca Italia 5 Stelle con Forza Italia, con Berlusconi, ma in generale l'accusa a 5 Stelle è quella di fare tutto questo caos perché si vogliono opporre alla nuova stagione di riforme. In tutto ciò la giornata è stata connotata anche dai commenti su quanto successo ieri sera subito dopo la cosiddetta ghigliottina, il trambusto che c'è stata in aula, e nello specifico l'accusa della deputata del Movimento 5 Stelle Lupo, che ha accusato D'Ambrosio, che è di Scelta Civica e tra l'altro è anche uno dei questori di Montecitorio, di averla colpita in viso. In effetti immagini, Roberta, che testimoniano che questo fatto è accaduto. Allora, oggi la Lupo è intervenuta in aula chiedendo che D'Ambrosio non abbia poi più spazio a Montecitorio, e c'è stata poi le scuse di D'Ambrosio. Possiamo sentire. Nell'atto in cui sono scesa, il questore D'Ambrosio ha pensato bene che questo mio atteggiamento potesse ledere la sua persona, che non era ivi presente in quell'istante, e ha pensato bene di usarmi violenza fisica. Propongo la Presidenza, come d'articolo 60, comma 3, di interdire la partecipazione ai lavori parlamentari, intanto, fino alla dimissione del questore D'Ambrosio, che abbiamo chiesto attraverso atto ufficiale a questa Camera. Una pagina davvero brutta della nostra democrazia. Sono dispiaciuto di essere stato coinvolto e di essere stato un attore di una vicenda che davvero ha visto il degrado della nostra democrazia a livelli mai visti sino ad adesso. C'è stato un fatto che, rivedendolo, quello che è occorso nei confronti della deputata Lupo, che è avvenuto con assoluta involontarietà da parte mia, perché nella concitazione che soltanto chi era presente lì può cogliere, nella violenza espressa dall'aggressione del gruppo dei grillini che cercava di raggiungere la presidente Boldrini, e per la quale io mi sono dovuto frapporre insieme agli altri commessi, essendo io il questore anziano della Camera, ebbene, di tutto questo io davvero ho già chiesto scusa alla deputata Lupo. Ci vorrebbe un pacificatore parlamentare, credo, Vincenzo Miglietta, a questo punto. Sì, vero. Sarebbe utile. In realtà già lunedì gli altri questori, non D'Ambrosio, si riuniranno per prendere provvedimenti, credo, nei suoi confronti, ma anche, come ha annunciato la Presidente della Camera Boldrini, nei confronti dei 5 Stelle che in queste ore si sono resi protagonisti di queste occupazioni e dell'introduzione dei vari lavori. Grazie Vincenzo Miglietta, grazie di aver sintetizzato tutto questo fermento che c'è stato oggi in Parlamento. Intanto restiamo su questi temi. Per il Movimento 5 Stelle ha presentato anche la richiesta di messa in stato d'accusa nei confronti del Capo dello Stato. Sentiamo come funziona. Attentato alla Costituzione, questo è il reato per cui il Movimento 5 Stelle accusa il Presidente della Repubblica Napolitano. Attentato alla Costituzione per il mancato rinvio alle Camere di leggi incostituzionali, abuso del potere di grazia della decretazione d'urgenza, grave interferenza nei procedimenti giudiziari sulla trattativa Stato-mafia. Quanto basta dunque per i grillini a giustificare la messa in stato d'accusa trasmessa formalmente ad entrambi i rami del Parlamento? Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera. Se qualcuno oggi vuole ancora dubitare del fatto che il Presidente della Repubblica, da arbitro, è diventato un giocatore sceso in campo con la fascia di capitano di una parte della politica italiana, non so, credo abbia gli occhi chiusi. E dunque, primo atto formale per procedere alla messa in stato d'accusa, ma il percorso è molto complesso. Il primo passaggio prevede l'esame da parte di un apposito comitato formato dai componenti della Giunta del Senato e da quelli della Giunta della Camera competenti per le autorizzazioni a procedere, che deve decidere sulla legittimità dell'accusa. La parola finale spetterà invece alla Corte Costituzionale. Alessandra Schepis, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E se volete dite quali sono le vostre sensazioni rispetto a questa situazione così agitata, questa situazione politica così in fermento, diciamo con eufemismo. C'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, Effetto Notte trattino Roberta Giordano. Nel frattempo, in tutto questo, è iniziata la discussione in aula sulla legge elettorale. Non teme imboscate Matteo Renzi nel giorno in cui la legge elettorale approda nell'aula di Montecitorio. L'accordo siglato con Berlusconi reggerà per il segretario PD. L'Italicum è costituzionale. Sulle preferenze precisa che con il Porcellum c'erano 30 nomi e votando il simbolo si votava l'intero pacchetto. Stavolta i collegi sono molto più piccoli. Per il relatore Francesco Paolo Sisto di Forza Italia, questa legge è fatta per garantire la governabilità. Le sofferenze che hanno spesso accompagnato tutti i tentativi di modificare la legge elettorale oggi tornano di particolare attualità, soprattutto dopo il monito della Corte Costituzionale. Il rispetto delle regole della democrazia deve costituire il fil rouge su cui innestare il dibattito, determinare le opzioni, votare la legge. Senza il rispetto di tale percorso delle regole della democrazia, al di fuori di questo percorso c'è soltanto il buio. Domani il voto sulle pregiudiziali. La minoranza PD dichiara che il partito voterà compatto contro, mentre il Movimento 5 Stelle contesta il fatto che il disegno di legge entri in aula senza il voto in commissione. Protesta anche dei partiti piccoli e della Lega. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E si apprende oggi che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha rifiutato la domanda di Silvio Berlusconi di trattare con procedura prioritaria il suo ricorso contro la legge Severino. Era stato in base proprio a questa legge che i senatori avevano votato lo scorso anno la decadenza di Berlusconi. E sempre la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ha reso noto oggi che nel 2013 l'Italia è risultata seconda solo alla Russia per il numero di cause pendenti, ben 14.400. Nel 2012 era risultata al terzo posto alle spalle di Mosca e della Turchia. E oggi a Berna il secondo forum per il dialogo tra la Svizzera e l'Italia. Al centro ovviamente il confronto fiscale, fiducioso il ministro Saccomanni che tra l'altro annuncia ore contate per gli evasori. E sempre per scovare gli evasori è pronto al debutto il redditometro, lo ha annunciato il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, oggi al Sole 24 Ore, che sul rientro dei capitali ribadisce: questo non è un condono. Siamo pronti per i controlli, ma non saranno esagerati, partiremo dai casi più eclatanti. Parole del numero uno dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, che alla 23esima edizione di Telefisco, l'appuntamento annuale del Sole 24 Ore sulle novità tributarie, annuncia l'avvio del redditometro. A breve emaneremo le ultime direttive che rispecchiano totalmente il parere che il garante per la protezione dei dati ci ha dato. Partiremo con un numero abbastanza limitato. Intendiamo partire con il piede giusto, aggiunge Befera, che sui contenziosi sottolinea. Quello che abbiamo detto ai nostri uomini, se c'è l'errore, c'è l'ipotesi di errore, bloccare subito tutto. Altro tema caldo sul tavolo, il rientro dei capitali all'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulla voluntary disclosure. Ci sono segnali importanti di voglia di rientrare, dice il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con una precisazione importante sui costi di rimpatrio. Il costo non è piccolissimo, però non è un condono e non può e non deve essere un condono. Sulla vicenda Fiat, infine, Befera sottolinea come dal punto di vista fiscale non si possano impedire scelte economicamente convenienti, ma aggiunge: verificheremo il pieno rispetto delle leggi fiscali italiane. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il Sole 24 Ore. E parliamo anche della vicenda Electrolux. Squinzi, il presidente di Confindustria, scrive una lettera a Letta e dice: serve una forte azione del governo a difesa dell'industria e in assenza di un'inversione di questo trend, avverte Squinzi, andremo irrimediabilmente verso la desertificazione industriale del nostro paese. E siamo al delitto di Meredith Kercher a Firenze, come dicevo, attesa la sentenza del processo d'appello per l'omicidio. In serata è arrivata la notizia che non sarà in aula neanche Raffaele Sollecito, poi Amanda Knox è addirittura rimasta negli Stati Uniti. Raffaella Calandra, per il momento non ci sono ancora, la sentenza non è arrivata, no? No, dopo 11 ore ormai di Camera di Consiglio è attesa davvero a minuti la nuova sentenza d'appello della Corte d'Assise d'Appello di Firenze. È slittata continuamente, era attesa inizialmente dopo le 17, poi dopo le 20, adesso dovrebbe essere tra le 21 e le 21:30. I giudici sono entrati in Camera di Consiglio questa mattina alle 10:15 dopo le ultime repliche, per arrivare dunque ad emettere la quarta sentenza in 7 anni sul delitto di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa a Perugia il 2 novembre del 2007. Imputati, come ricordavi, Raffaele Sollecito e Amanda Knox, che non sono presenti e che per il quale la Procura Generale ha chiesto 30 anni per Amanda Knox e 26 per Raffaele. Se fossero condannati scatterebbero anche delle misure cautelari che potrebbero andare dal divieto di espatrio per Sollecito fino ai domiciliari o anche all'arresto. Ricordiamo che in primo grado erano stati condannati a 26 e 25 anni, assolti in appello, poi la Cassazione ha annullato quella seconda sentenza ordinando questo nuovo processo in appello, e staremo a vedere i giudici dopo la lunga Camera di Consiglio a quale verdetto arriveranno e se sarà davvero messa la parola fine a questa vicenda giudiziaria molto, molto complessa. Sarebbe auspicabile. Grazie Raffaella Calandra, se mai ci sentiamo dopo, allora appunto siamo in attesa di questa sentenza. Intanto, per la cronaca, sono 3 le persone, tutte tossicodipendenti, fermate per il furto della reliquia con il sangue di Papa Wojtyla, rubata nella notte tra sabato e domenica dalla chiesa di San Pietro della Jenka all'Aquila. Ed è stato arrestato a Copenaghen un giovane rumeno di 27 anni, presunto molestatore, ricercato da una settimana dalla polizia di Bologna. Secondo le testimonianze e le denunce fatte dalle vittime, sarebbe responsabile di alcune aggressioni sessuali avvenute l'11 gennaio in città. Per quanto riguarda l'estero, situazione ancora di stallo in Ucraina, il presidente Yanukovych è ufficialmente a casa per malattia, ma non per questo rinuncia ad attaccare l'opposizione. E per chiudere, è cominciato il lento risveglio per Michael Schumacher. Il suo staff non voleva che filtrassero notizie dalla clinica di Grenoble in cui è ricoverato da un mese, ma i primi a dare la notizia sono stati i media francesi. Michael Schumacher è fuori pericolo di vita, comincia a sbattere gli occhi, si inizia a cercare di risvegliarlo. La portavoce Sabine Kem ha così deciso di confermare. I medici hanno ridotto la dose di sedativi per avviare un processo di risveglio dal coma artificiale. Per l'ex campione di Formula 1 tedesco, un processo che potrà durare a lungo, ma per ora reagisce positivamente. Inizialmente, ha scritto la portavoce in una nota, era stato convenuto tra le parti interessate di non comunicare questa informazione medica se non quando il processo di risveglio sarà completato, al fine di proteggere la famiglia. Non daremo quindi alcuna informazione sulle tappe intermedie. La famiglia chiede ancora il rispetto del silenzio. Gli amici stanno sempre vicini a Schumi. Le vetture di Mercedes e Ferrari hanno girato a Jerez de la Frontera con la scritta Forza Michael. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E qui finisce la prima parte del racconto della giornata, poi ci saranno i primi ospiti e tra l'altro in particolare il primo ci spiegherà in cosa consiste questo impeachment, se è possibile, quali possono essere gli estremi per renderlo possibile e le conseguenze. Per i vostri commenti o i messaggi a 349-238-6666 o la pagina Facebook di Effetto Notte. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi di nuovo qui insieme, Roberta Giordano con voi. Tra poco appunto cercheremo di approfondire questo discorso e questo concetto dell'impeachment che è stato annunciato dal Movimento 5 Stelle, ma prima vi ricordo quali sono stati i fatti principali della giornata. A partire appunto dal Movimento 5 Stelle contro tutti e contro la Presidente Boldrini, ricorso del Movimento alla Corte Costituzionale. Per quanto riguarda la legge elettorale, è iniziata alla Camera la discussione generale, continua anche in questo caso la protesta dei grillini. Renzi dice non c'è nessuna preoccupazione per le imboscate da parte della Corte Costituzionale. Evasione fiscale, gli evasori hanno i giorni contati, dice Saccomanni, ed è vicino l'accordo con la Svizzera per il rientro dei capitali. Delitto Meredith Kercher entro sera, anche a momenti, anzi ci dovrebbe essere la nuova sentenza d'appello. Per quanto riguarda Schumacher, è iniziato all'ospedale di Grenoble il suo lento risveglio. E finalmente allora affrontiamo questo tema e saluto subito Stefano Ceccanti. Buonasera. Buonasera. Grazie, bentornato, docente di diritto pubblico comparato all'Università La Sapienza di Roma. Allora, intanto diciamo subito che cos'è l'impeachment, che poi in italiano sarebbe lo stato d'accusa, Ceccanti, no? Tradotto. Sì, secondo l'articolo 90 della Costituzione, il capo dello Stato può essere chiamato alla sua responsabilità solo nei casi di alto tradimento e di attentato alla Costituzione. Si presenta una denuncia e questa denuncia è esaminata da una commissione bicamerale di deputati e senatori che o l'archivia perché la ritiene infondata oppure la manda al voto dell'Aula. Se l'Aula a maggioranza assoluta, il Parlamento in seduta comune lo condivide, lo manda al giudice. Il giudice è la Corte Costituzionale in una formazione integrata, non solo i 15 giudici, ma integrata da altri 16 cittadini che hanno i requisiti per l'elezione al senatore, estratti assorti in un elenco di 45 che ogni 9 anni formula il Parlamento. E lei, Ceccanti, ravvisa quindi nel comportamento di Napolitano in questi anni, in questi due mandati, quindi i due aspetti che potrebbero richiedere l'impeachment, cioè come ricordava, l'alto tradimento o l'attentato alla Costituzione? No, io decisamente non li ravviso. Li ravviso ancora meno dopo aver letto questa curiosa memoria, di cui comunque ognuno si può fare un'idea personale sul sito di Beppe Grillo, www.beppegrillo.it. Sì. Ci sono 6 elementi di accusa, nessuno dei quali ha la minima credibilità e fra l'altro sono pure contraddittori tra di loro. La cosa più paradossale è il punto 4, cioè si dice che siccome la Costituzione dice che il Presidente è eleggibile per 7 anni, implicitamente vuol dire che non è rieleggibile, ma questo è un modo di leggere la Costituzione piuttosto curioso, se non fosse rieleggibile ci sarebbe scritto. E quindi accettando la rielezione Napolitano avrebbe commesso una specie di colpo di Stato. Poi al punto 1 Napolitano viene criticato perché è presidenzialista, però poi si dice al rovescio perché non fa granché, perché non blocca i decreti del governo. Quindi delle due l'una, o è presidenzialista o non fa niente, no? Non si possono sostenere due le tesi simultaneamente. Poi c'è un altro punto dove si fa dire praticamente il Napolitano criticato in quanto presidenzialista dovrebbe rinviare un po' tutte le leggi, perché si scopre a posteriori che la Corte alcune di queste leggi che lui firma le dichiara incostituzionali. Il controllo che fa il Presidente prima di una legge è diverso da quello che fa a posteriori la Corte, che esamina poi l'incostituzionalità di una legge nel vivo di un contesto, non si può prevedere esattamente prima come viene applicata. Queste sono le cose più rilevanti. Poi c'è l'accusa di aver fatto un conflitto contro la Procura di Palermo, però non c'è scritto com'è finita, cioè che la Corte Costituzionale ha dato ragione a Napolitano. Cioè sulla trattativa Stato-mafia? Sulla trattativa Stato-mafia. Si dice che Napolitano ha colpito questa procura di Palermo portandola in giudizio di fronte alla Corte Costituzionale. Poi manca però appunto il seguito che la Corte, ahimè, ai loro, ha dato ragione a Napolitano e non alla procura di Palermo. Dopodiché non si può omettere una cosa del genere. Poi si accusa per aver mandato in Parlamento un testo di riforma costituzionale, di aver spinto per la riforma elettorale, che non mi sembra che configuri un colpo di Stato, ma una presa di posizione di moral suasion necessaria. Peraltro se il Parlamento avesse seguito il Presidente ci saremmo risparmiati la sentenza della Corte. E infine contesta che in qualche caso il Presidente ha usato il potere di grazia in modo che loro non condividono. Sì, loro non lo condivideranno, però il potere di grazia spetta al Presidente. Quindi appunto casomai si può arrivare a ritenere che alcune sono critiche politiche, uno può pensarla diversamente dal Presidente, ma da qui a dire che abbia commesso l'altro tradimento, l'attentato alla Costituzione, non sta obiettivamente né in cielo né in terra. Possiamo dire, Ceccanti, che effettivamente non ci sono questi elementi come capi d'accusa, insomma. È vero che il capo dello Stato può essere criticabile, non è una divinità in terra, però come diceva, questo non contempla la critica pur legittima. Certo, ma un conto è dire tu Presidente della Repubblica hai dato una grazia che secondo me non andava data, e questo si può dire. Un conto è dire tu hai fatto un discorso fuori dalla riforma elettorale, era meglio se non te ne occupavi, questo rientra nell'ambito della critica politica, però questo non significa che uno ha fatto un colpo di Stato, significa che ha usato i suoi poteri in un modo che uno può condividere o meno, ma non che ha violato la Costituzione in modo tale che sia configurabile un altro tradimento o un attentato alla Costituzione, sono due piani del tutto diversi. Ceccanti, mi pare di ricordare fra le accuse del Movimento 5 Stelle anche quella del silenzio quando Napolitano era ministro dell'Interno a proposito della confessione del pentito che disse tra 20 anni ci saranno molti morti nella Terra dei Fuochi perché qui è sepolto di tutto, rifiuti tossici. No, però questo loro non schiavone. L'hanno scritto. No, loro no, anche perché loro nei 6 punti d'accusa non c'è questo. Sì, no, ma anche perché quello non avrebbero comunque potuto scriverlo, perché il punto è l'esercizio del mandato di Presidente della Repubblica. Che cosa lui nel corso del mandato di Presidente della Repubblica ha fatto che configura l'altro tradimento o tentato la Costituzione. Se viceversa loro, casomai quell'altra cosa che loro dicono potrebbe essere configurabile come un reato ministeriale, che è un'altra cosa, che è un'altra procedura. Ma invece nel suo ruolo che molti definiscono un po' strabordante, no? Quindi più da Presidente del Consiglio che da Capo dello Stato, in questo lei che cosa vede? Effettivamente un reale tracimamento del suo ruolo oppure non aveva alternative, la sua scelta personale, insomma, che è legittima? No, ma il problema è questo, come hanno spiegato vari autori, il Presidente della Repubblica ha dei poteri cosiddetti a fisarmonica. Se il sistema dei partiti funziona bene, questi poteri restano per così dire in sonno, oppure sono meramente notarili. Prendiamo il potere di nominare il Presidente del Consiglio. Se vince chiaramente le elezioni qualcuno, è chiaro che il potere di nominare il Presidente del Consiglio è un potere notarile. Io prendo atto che qualcuno ha vinto le elezioni e lo nomino. Se viceversa il sistema dei partiti, i rapporti tra le forze parlamentari non funzionano bene, quindi c'è un gigantesco caos parlamentare, in qualche modo il Presidente della Repubblica non fa solo da notaio, ma aiuta a trovare una soluzione, come ha aiutato nel caso del governo Monti o come ha aiutato nel caso in maniera diversa del governo Letta. Però è sempre la stessa Costituzione, però dove si viene a creare un vuoto, questo potere viene riempito da questi poteri presidenziali. Però il punto è che anche sulla formazione dei governi loro non l'hanno contestata, perché si può discutere se sia stato giusto o meno andare verso il governo Monti e così via, però non c'è dubbio che il Presidente ha utilizzato i suoi poteri. E sulla questione invece della ghigliottina, di questo strumento usato ieri per la prima volta dalla Presidente della Camera Boldrini, cioè quindi di impedire ai parlamentari di discutere i loro emendamenti. Mi scusi Ceccanti, c'è forse la sentenza per Meredith, adesso vediamo se arriva proprio in diretta, a momenti, ancora no, si stavano muovendo. Allora, ecco, questo mi permette di dire che in realtà non è vero questa cosa, cioè tutti gli emendamenti e tutti gli ordini del giorno sono stati tutti discussi e votati. Ed è stata semplicemente tagliata l'ultima fase, quella delle dichiarazioni finali di voto. Quindi non c'è nessun emendamento né nessun ordine del giorno che non sia stato esaminato e votato. Quello è un potere previsto, non era mai stato esercitato prima perché l'opposizione poi aveva trovato dei punti di compromesso e non era mai arrivato fino a rischiare di far decadere un decreto. La Presidente Boldrini aveva questo potere, ha visto che il decreto stava per decadere e l'ha utilizzato. Chiarissimo. Io la ringrazio Stefano Ceccanti. Prego. Ci sarà modo di risentirci naturalmente. Senz'altro, perché dico sempre, ci sono sempre nuovi stimoli dalla politica italiana. Grazie, buonasera. Sì, grazie, arrivederci. Allora, in attesa poi della sentenza Meredith, sembrava che si muovesse qualcosa nell'aula del tribunale, ma adesso vediamo, ci prendiamo questa piccola pausa per la pubblicità, poi ritorniamo con i vostri messaggi, con la pagina Facebook di Effetto Notte. A dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo insieme, Roberta Giordano con voi, tra poco altri ospiti, leggo qualcuno dei vostri messaggi. Alessandra scrive: 5 Stelle non hanno presentato alcun serio progetto di legge, l'opposizione si fa sostenendo fattive alternative e non gridando insulti. Poi Sandra: così l'aula sorda e grigia diventa un bivacco per manipoli. E poi Ubiali dice da Bergamo: penso che questo stato di cose, ossia il totale blocco politico su se stesso, ottima tavola imbandita per chi non vuole troppi cambiamenti. Vi ricordo i fatti principali di oggi e poi il prossimo ospite. Movimento 5 Stelle contro tutti e anche contro la Presidente Boldrini, ricorso del Movimento contro la Boldrini alla Corte Costituzionale. Legge elettorale è iniziata alla Camera, la discussione generale, ma continua la protesta dei grillini e Renzi dice non temo nessuna imboscata. Sull'evasione fiscale gli evasori hanno i giorni contati, assicura Saccomanni, intanto è vicino l'accordo con la Svizzera. È attesa a momenti la sentenza d'appello per il delitto Meredith Kercher e per quanto riguarda Schumacher c'è una notizia che si può considerare prudentemente buona. È iniziato all'ospedale Grenoble il suo lento risveglio. Ed eccoci allora nel pieno della questione politica con due esponenti dei partiti in Parlamento, i quali chiedo di essere molto sintetici così riusciamo ad avere uno scambio proficuo e alternato. E saluto e ringrazio Ernesto Carbone, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Deputato PD e Danilo Toninelli, buonasera a lei Toninelli. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a lei di averlo accettato, deputato del Movimento 5 Stelle. Allora, Ernesto Carbone, tra l'altro, se non sbaglio, proprio lei aveva chiesto le dimissioni di Stefano D'Ambrosio, di Scelta Civica, questore anche della Camera, che ha tirato quel colpo che abbiamo visto più volte, mandato più volte in loop, diciamo, in televisione. No, ci ha ripensato. Guardi, c'è stato un errore, io non ho chiesto le dimissioni di D'Ambrosio. Io ho semplicemente detto che l'atto del questore D'Ambrosio sarà valutato da chi di dovere. Esiste un regolamento, esistono delle persone che devono giudicare, esistono delle sanzioni. E con molta serenità dico che si dovrà giudicare il comportamento dell'onorevole D'Ambrosio, ma non ho detto che si deve dimettere, questo assolutamente non è mai... Era arrivata una sintesi giornalistica evidentemente su questa cosa. No, non è andata così. Ma questo lo dico con sempre la tranquillità, cioè sì. Il fatto esiste, l'abbiamo visto tutti quanti in TV, nelle fotografie oggi su quasi tutti i giornali. Non dico che si debba dimettere, dico che esistono degli strumenti per prendere eventuali provvedimenti. Senta, invece rispetto alla denuncia di alcune deputate PD nei confronti del deputato De Rosa che l'avrebbe insultata, avrebbe rivolto loro degli insulti sessuali, cosa ne pensa? Penso che anche questo sia assolutamente gesti sicuramente censurabili. Credo che qua siamo su due binari, uno su quello appunto della Camera dei Deputati, anche questo gesto, queste parole devono essere sanzionati da gli strumenti che ha la Camera dei Deputati. Dall'altro lato io dico che le mie colleghe stamattina hanno depositato una denuncia querela nei confronti del deputato De Rosa, se non sbaglio, credo che sia, sì. Perché si ritengono diffamate dalle sue parole, sicuramente parole non belle, sicuramente parole violente. Io considero, ma glielo dico con tanta tranquillità, considero il gesto dell'onorevole D'Ambrosio alla pari del gesto dell'altro collega che ha espresso parole poco gentili nei confronti delle mie colleghe. In un caso deciderà la Camera, nell'altro caso deciderà un tribunale penale ed eventualmente un tribunale civile. Insomma, mi sembra tutto abbastanza lineare, poi ognuno sceglie i mezzi che più ritiene per fare battaglia politica, e utilizzo una parola che non mi piace, però ormai siamo a questo punto. Leggo tra i tanti messaggi questo di un ascoltatore che scrive: porca miseria Beppe, e si riferirà naturalmente a Beppe Grillo, in onore dell'audience mandate a fondo il programma. Cosa risponde Danilo Toninelli? Non riesco sinceramente a capire la domanda. Io le vorrei rispondere invece alla domanda che ha fatto al collega. Sì. L'atto del questore anziano D'Ambrosio, un atto di violenza fatto nei confronti di una donna, che ha ancora maggior peso perché è fatto proprio da colui che ricopre un ruolo, cioè il questore, che è garante, responsabile giuridico della sicurezza all'interno di tutto Montecitorio. Quindi capisce lei la doppia gravità che ha quest'atto. Per quanto riguarda invece il collega De Rosa, si è scusato, ha commesso sicuramente un atto offensivo nei confronti delle donne, ma deve essere anche raccontata tutta la questione, perché lui è stato più volte tacciato di fascista ad circa una decina di deputati del Partito Democratico. Io ricordo che purtroppo questo ragazzo ha un nonno che è stato portato in campi di concentramento per non essere andato dalla parte dei tedeschi, e si è sentito molto molto offeso, una cosa ovviamente non giustifica per certo nulla il fatto che ha commesso l'offesa alle donne, però bisogna comunque sempre dare alla verità e raccontare la verità dei fatti completi. Senta Toninelli, però anche D'Ambrosio, a onor del vero, ha chiesto scusa più volte in varie trasmissioni oggi, mi sembra. Mi sembra un atto dovuto, l'ha fatto a distanza di molte ore, perché le prime affermazioni pubbliche del questore D'Ambrosio erano: non ho commesso nulla, addirittura è arrivato a scrivere, non a dire, che stava difendendo la presidente Boldrini, che si trovava a due piani di distanza da lui. Quindi capiamo bene la persona che abbiamo di fronte, che si deve dimettere. Il primo passo lo deve prendere la presidente Boldrini, ovvero sia norma di regolamento interdirne la partecipazione ai lavori parlamentari. Dopodiché l'onorevole D'Ambrosio si deve dimettere prima da questore e dopo da deputato della Repubblica. Senta, invece, a proposito dell'impeachment che avete annunciato, la richiesta di stato d'accusa per Napolitano, diceva il costituzionalista Ceccanti, dice in realtà è prevista nel caso di alto tradimento, di attentato alla Costituzione, non ravvisava nessuno di questi due elementi. Allora, noi non siamo della stessa opinione. All'interno del documento abbiamo indicato tutta una serie di fatti che partono dalla promulgazione, dalla firma di decreti legge che non ha nulla a che vedere con le caratteristiche che prevede la Costituzione, e tutta una serie di altre questioni, come ad esempio le intercettazioni nel rapporto tra lo stralcio delle intercettazioni nei rapporti tra Stato e mafia, le questioni relative ad esempio alla legge elettorale o al tentativo di stracciare l'articolo 138 della Costituzione, fattori importanti e rilevanti per la Costituzione stessa, per i quali il Presidente da una parte non si è dichiarato e dall'altra, parlo della legge elettorale, ha fatto un'attività per incidere sulla formazione di una legge elettorale, ovvero sia portando avanti un qualcosa, una competenza che non gli spetta per nulla. Ernesto Carbone, voi invece che posizione avete rispetto a come procederete, come agirete, che intenzioni avete rispetto a questa richiesta di impeachment? Ma guardi, fa sorridere già la richiesta di impeachment, fa sorridere, lo ha spiegato giustamente lei, esistono dei casi precisi, fissi, stabiliti dalla Costituzione per porre in stato d'accusa il Presidente della Repubblica. Mi sembra che sia un po' fare un po' di fuffa, mi sembra fare un po' di caos per evitare di parlare di altro. La vera verità è che da domani ci sarà un voto decisivo per la legge elettorale. La gazzarra che c'è stata in questi giorni, colleghi grillini, fa capire esattamente chi vuole fermare queste riforme e fa capire veramente di cosa hanno paura, secondo me, i deputati 5 Stelle. Glielo dico, ma col massimo rispetto, perché guardi, io sono favorevolissimo all'opposizione, ho degli ottimi rapporti con i miei colleghi del Movimento 5 Stelle, soprattutto quelli in commissione da me, in commissione finanza, però credo che si sia superato il limite tra la libertà di fare ostruzionismo, di fare anche opposizione dura, e la mia libertà di fare la maggioranza, quindi di legiferare e di creare delle norme, quindi di creare qualcosa di buono per il Paese, di fare una legge elettorale di cui ne abbiamo assolutamente bisogno. Sono 9 anni che abbiamo una legge elettorale che chiamiamo Porcellum, nessuno ci ha mai messo mano, se non sui giornali o in TV. Finalmente stiamo arrivando ad avere una legge elettorale degna di un Paese serio. Poi ritorniamo sulla legge elettorale, leggo qualche messaggio perché ne stanno arrivando tanti sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Riccardo dice: a proposito di questa situazione così di caos, dice: con chi cerca di fare casino per ottenere casino e offrire casino ci vuole solo il macete. Può durare. Alessandro: vorrei poter entrare nella mente di chi per la prima volta dovrà andare a votare e vedere chiarezza in quello che fa. Mario: questi non sono normali, chiedono le dimissioni a tutti e al loro insindacabile giudizio. Germana: una confusione che sembra favorire la disattenzione per i provvedimenti importanti che sono sul tappeto, una confusione che 5 Stelle suscitano forse non accorgendosi che la loro agitazione non giova molto agli argomenti che essi desiderano vengano ascoltati. Tuttavia, soprattutto sento un'ipocrisia nei moralizzatori tutti contro i 5 Stelle. Toninelli, non avete paura che questo possa appunto oscurare, offuscare quello che potete fare di buono? Il fatto, cioè, di questa agitazione un po'... Allora, innanzitutto le parole che ho appena ascoltato al collega non fanno fede neanche per una briciola alla verità, ovvero sia le cose devono essere dette complete. Quello che stiamo facendo noi è qualcosa che non ha precedenti, ovvero sia una difesa delle regole democratiche e costituzionali. Il collega si è forse dimenticato di dire che quello che è stato fatto ieri è qualcosa che cambia completamente il livello della democrazia parlamentare, della libertà di espressione all'interno del Parlamento, perché la Presidente Boldrini, vero e proprio soprammobile del potere, ha fatto la cosiddetta ghigliottina, ovvero si è azzittito, ha posto fine ad un dibattito che stava avvenendo su un decreto IMU che andava benissimo, che avremmo votato e di cui io personalmente ho chiesto lo stralcio, e la seconda parte del decreto Banca Italia, che era una porcata di un regalo di 7,5 miliardi di euro dalle tasche di contribuenti alle banche private. Ebbene, la Boldrini su questo decreto porcata ha fatto un atto che non ha precedenti nella storia, che viola l'articolo 72, 71 e 72 della Costituzione, che sono quegli articoli che dicono una cosa semplicissima, che la funzione legislativa appartiene al Parlamento. Lei li ha violati e noi, come abbiamo annunciato in una conferenza di questo pomeriggio, faremo un ricorso alla Corte Costituzionale per il conflitto di attribuzione. Lo faremo come gruppo parlamentare ed è un qualcosa che non è mai successo. Questo è la verità e penso che gli ascoltatori capiscano dalle mie parole, dal modo in cui le dico, che ci sia un fondo reale di verità, non nella falsità dette appena ascoltate dal collega. Do quindi la parola per replicare. Tra l'altro c'è un Toninellum, se non sbaglio. Toninelli, sinteticamente, lei aveva presentato un suo progetto di riforma della legge elettorale. Certamente, l'abbiamo fatto alla fine di settembre, l'abbiamo fatto proprio al fine di far capire quali... Carbone, adesso la lascio parlare. Sì, sì. Sì. Merito di legge elettorale, ovvero sia una legge elettorale che garantisce una governabilità sana, cioè non drogata da un premio di maggioranza. Che mi pare che sia un proporzionale, dei cittadini. Un proporzionale. Non c'è mai stato considerato questa nostra proposta di legge e ne sono arrivate 3 astratte, tutte evidentemente con profili di incostituzionalità, e come vede noi siamo stati i primi a dirlo, ma ora si sono accodati persone come Rodotà, come Pace, come Zagrebeschi, ovvero sia i migliori costituzionalisti d'Italia, che dicono che che la proposta Italicum del capo del Partito Democratico, del padrone di Forza Italia, è una proposta con profili evidenti di incostituzionalità. Poi vedremo la Corte Costituzionale. Ho pochi secondi, quindi però devo lasciare diritto a Carbone di replicare, poi dobbiamo lasciarci. Prego, Carbone. Io brevemente un flash su Banca d'Italia. Sì. Come che è poco chiaro a tutti gli italiani, io credo, come in gran Toninelli parte. Sa, altrimenti so può far raccontare dai suoi colleghi in Commissione Finanze, sono stato sempre molto critico nei confronti di questo decreto Banca Italia, però bisogna dire la verità, io sono stato critico per altre cose. I famosi 7 miliardi e mezzo non escono dalle casse dello Stato. Banca Italia è sempre stata, dal 1939, una banca delle banche. Si fa una rivalutazione di capitale, cosa che è avvenuta in tutti i paesi europei, e a noi si fa ad un costo più basso rispetto a quello che è avvenuto in Germania, in Spagna e in Francia. Punto. Per quanto riguarda la proposta di Toninelli, che io considero una persona seria, perché io sono il primo a dire che il Movimento 5 Stelle, i deputati del Movimento 5 Stelle, molti deputati, sono 1000 volte meglio di Casaleggio, di Grillo o di altri loro colleghi. Sulla proposta di Toninelli, la cosa che a me dispiace è perché non si è discusso. Stiamo scrivendo le regole, non stiamo scrivendo una norma ordinaria, stiamo scrivendo le regole della competizione. A me è dispiaciuto che il Movimento 5 Stelle, ma tanto lo dico, sono seriamente dispiaciuto. A me è dispiaciuto che il Movimento 5 Stelle non ha partecipato alla discussione serena, tranquilla sulla legge elettorale. Posso chiedere, poi magari non arrivavamo, sì, poi magari non arrivavamo a nessun punto in comune, però si discuteva in modo civile, serio, tranquillo e concreto. Ho 10 secondi, la veramente. La loro discussione mi è dispiaciuta molto. Toninelli, perché mi dica proprio in un ratto come la folgore, come mai non volete discutere? Ma proprio brevissimo, se no mi tranciano, proprio mi tagliano. Poste non sono mai arrivate e sono state decise al di fuori del Parlamento da due persone. Noi eravamo lì nel nostro posto di lavoro, qual è il Parlamento, luogo per fare le leggi. Benissimo, noi chiaro. Non siamo mai stati invitati fuori dal Parlamento. Chiaro, grazie Danilo Toninelli, grazie Ernesto Carbone. Adesso devo lanciare subito gli aggiornamenti per chi sta viaggiando e questione di pochi attimi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Tarda ad arrivare la sentenza sul processo d'appello Meredith, però intanto parliamo di Europa. Parliamo di Europa. Secondo una stima recentemente diffusa dall'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, nel 2013 più di 45.000 migranti hanno rischiato la vita nel Mediterraneo. I risultati del lavoro fatti da questa task force per il Mediterraneo, voluta dalla Commissione europea, saranno presentati al Parlamento europeo. Ci anticipa i contenuti Michele Cercone, portavoce della commissaria europea dagli affari interni Cecilia Malmström, servizio di Laura Bettini. Europa 24 notte. Verso le europee. Le conclusioni della task force per dare seguito alla strategia che la Commissione ha suggerito dopo la tragedia di Lampedusa si articolano nel breve, medio e lungo periodo. Nel breve periodo l'obiettivo è quello di essere in grado di identificare e intervenire per salvare vite umane nel Mediterraneo. Ci sono due strutture operative, una è Eurosur, un sistema tecnologico che permette di identificare meglio con più precisione e di intervenire più rapidamente, e poi un aumento della presenza di Frontex, l'agenzia per il sostegno al controllo delle frontiere, nel Mediterraneo. Per il medio e lungo periodo si tratta di cooperare, dialogare meglio con i paesi di origine e di transito per aprire maggiori canali per l'immigrazione regolare e allo stesso tempo lottare contro le reti di trafficanti e scafisti che sono all'origine poi di queste tragedie. Arriveremo, per così dire, pronti alla primavera e all'estate prossima? Credo che essere pronti di fronte a un fenomeno che in realtà è guidato da forze criminali è sempre molto complicato e difficile. Di sicuro arriveremo alla prossima stagione con gli strumenti e le risorse che permetteranno di avere un intervento più accurato, di monitorare in maniera più dettagliata e sicuramente di scambiare meglio le informazioni per evitare che possano succedere tragedie. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Bene, l'intervista era di Laura Bettini, adesso però passiamo ad altro. Stavo leggendo il messaggio di Danilo sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Molto grave, mi vergogno di essere rappresentato da questa gente che assolutamente non fa gli interessi degli italiani. Il Movimento 5 Stelle è il partito, dice, che potrà salvarci e voi giornalisti venduti non lo direte mai. Addio, non vi ascolterò mai più. Insomma, ripensaci Danilo, insomma, mi pare di far parlare un po' tutti. Adesso farei parlare invece Mauro Meazza, caporedattore centrale del Sole 24 Buonasera ore. Roberto, buonasera a tutti. Ciao Mauro, tu mi ascolterai ancora? Sicuramente, grazie. Anche perché dobbiamo parlare di questa grande iniziativa del Sole, di Telefisco. In cosa consiste? Che consiste in questo evento che si è svolto oggi, convegno in 110 città, in 110 sedi, che è servito a chiarire un po' di punti oscuri della normativa fiscale. Come sai, la normativa fiscale nostra è sempre abbastanza oscura. C'è stata una grossa partecipazione di pubblico, i numeri precisi poi li riportiamo domani sul Sole 24 ore, ma soprattutto c'è stata una grossa mole di quesiti e anche in platea ci sono state proprio le lamentele, la fatica, lo scoramento dei professionisti del fisco, commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, che si trovano poi a fronteggiare le novità fiscali, novità normative, spiace dirlo, che talvolta sono anche escono un po' pasticciate dal Parlamento, e un po' pasticciate è assolutamente un eufemismo. e se pensate alla... Riferivi alla questione Banca Italia? No, mi riferivo alla questione IMU, che è l'altro pezzo del decreto IMU Banca Italia, cioè quel decreto lì... Si sta riunendo la Corte, scusa Mauro, se potrei interromperti da un momento all'altro, tu vedi... Possiamo anche fermarci qui... Lunghe toghe nere... Dico solo che Telefisco poi è visibile sul nostro sito, si possono rivedere anche le dichiarazioni del direttore delle entrate, Attilio Befera. Prego, no, ma intanto proviamo a sentire Peter se... Sollecito Raffaele, eccola. Visto l'articolo 627, codice di procedura penale, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione emessa in data 25 marzo 2013, numero 422, sull'appello proposto dal Nox Amanda Marie, sollecito Raffaele dal Pubblico Ministero, avvesto la sentenza emessa in data 4-5 dicembre 2009 dalla Corte di Assise di Perugia, ritenuta la sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 61 numero 2 codice penale relativamente al delitto di cui all'articolo 368 comma secondo codice penale, ridetermina la pena inflitta a Nox Amanda Marin complessivamente in anni 28 e mesi 6 di reclusione. Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Condanna gli imputati al pagamento delle spese del precedente grado di giudizio e a quelle di difesa delle parti civili costituite per il presente grado e per quello di legittimità, che liquida come segue: per la parte civile Patrick D. Lumumba nella somma complessiva di euro 12.650 oltre accessori come per legge, per la parte civile Aldalia Tattanelli nella somma di euro 4.500 oltre accessori come per legge, per le parti civili Lil Kercher, Stefania Arlin Kercher nella somma di complessivi euro 11.000 per ciascuna oltre accessori come per legge, per le parti civili John Leslie Kercher, Carol Lara Kercher, John Ashley Kercher in complessivi euro 15.000 oltre accessori come per legge, visto l'articolo 544 comma terzo CPP indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione. La Corte ha poi provveduto sulle richieste cautelari avanzate al procuratore generale in udienza, pronunciando ordinanza di cui viene data lettura ai fini della notifica alle parti presenti. Vista la richiesta avanzata al procuratore generale di applicazione a Nox Amanda Marie e sollecito Raffaele, di misura cautelare comunque idonea a garantire le esigenze connesse all'esecuzione della sentenza di condanna. Insomma, diciamo, ritenuto che allo stato l'unica esigenza cautelare venuto fuori Raffaella Calandra. Roberta, sentiamo che cosa sta dicendo sulle misure cautelari, perché sta dicendo se devono andare in carcere o meno. Individuata in quella di prevenire il pericolo di fuga. Ritenuto che allo stato, per quanto attiene all'imputata Nox Amanda Marie, la stessa cittadina statunitense, trovasi legittimamente nel paese di origine in conseguenza di sentenza di assoluzione in grado di appello successivamente annullata e pertanto non sussiste oggettivamente il pericolo di fuga dal territorio nazionale che la misura cautelare è finalizzata a prevenire. Ritenuto che, diversamente in relazione al sollecito Raffaele, cittadino italiano con passaporto italiano, lo stesso, pur non sottraendosi alla partecipazione al giudizio, ha evidenziato la disponibilità di supporti logistici in paesi in relazione ai quali lo Stato italiano non risulta legato da accordi di assistenza giudiziaria e pertanto sussiste il concreto e attuale pericolo che l'imputato possa sottrarsi con la fuga alla giurisdizione italiana, ritenuto che, ai fini cautelari sopra indicati, deve ritenersi idonea la misura del divieto di espatrio attuata mediante il ritiro del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio, per questi motivi respinge la richiesta avanzata dal procuratore generale di applicazione di misura cautelare nei confronti di Nox Amanda Marie, visti gli articoli 274 lettera B e 281 CPP, applica a sollecito Raffaele la misura coercitiva del divieto di espatrio e per l'effetto prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede, disponendo il ritiro all'imputato del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. L'udienza è tolta. Bene, l'udienza è tolta. Meredith e Sollecito e Raffaele, quindi condannati. Amanda, scusate, Meredith, il caso l'omicidio Meredith. Amanda condannata a 28 anni e Raffaele Sollecito a 25. Raffaella Calandra, abbiamo proprio un minuto adesso per commentare. Eccoci qua. Allora, confermata la condanna, non andranno in carcere come abbiamo sentito. Soltanto per Sollecito c'è stata la revoca del passaporto perché, secondo il presidente della Corte d'Assise d'Appello, esistono effettivamente i pericoli di fuga. Dunque, la Corte d'Assise d'Appello stabilisce che Amanda e Raffaele sono colpevoli del delitto di Meredith Kercher. Ma ci vuole il prossimo grado, insomma. Grazie Raffaella Calandra, grazie Mauro Meazza. Grazie a voi. Per altre cose, ma questo è stato insomma un po' incombente. Noi ci sentiamo tra pochissimo. Grazie.